alta voce. Patrizia Zappa Mulas legge I padri lontani di Marina Jarr. Terza puntata. Giocai l'ultima volta il gioco degli odori a Waltershof, la proprietà di nobili tedeschi dove la mamma ci aveva nascosto negli ultimi mesi che passammo in Lettonia. Nostro padre e nostra madre stavano divorziando, la causa durò 6 anni, e la mamma intendeva portarci via clandestinamente in Italia nel timore che il tribunale non ci affidasse a lei. Di tutto ciò ci aveva informati la nostra governante Ingeborg, la chiamavamo Boggy, che aveva aiutato la mamma a preparare la nostra fuga e viveva con noi a Waltershof. Per raggiungere la nostra stanza, in un'ala dell'edificio, si attraversavano salotti e salottini pieni di mobili dalle gambe dorate e di poltrone coperte di fodere. In una stanza d'angolo, dalle finestre sempre chiuse, c'era, da mezzanotte a luna, un fantasma senza testa che, non ricordo più come, era collegato a una pendola del 700 donata da Maria Antonietta a una sua figlioccia, antenata del padrone di casa. Quella stanza l'attraversavo a occhi chiusi, fiutando l'odore di fantasma, piccolo sentore, debole e grigio, che non raggiungeva il mio naso, ma solo la remota tana nella mia testa, dove stavo rannicchiata. In questa tana metto in ordine incessantemente quel che sta capitando. Io non posso che dare ragione a mia madre. Ho sempre dato ragione a mia madre. Da lei mi vengono tutte le regole ed è lei che sto corteggiando da sempre. D'altronde è lei che mi ama. Mio padre mi ama? Nei mesi trascorsi a Waltershof non sogno neppure. La mia giornata mi insegue anche nel sonno. Qualche volta mi sveglio la mattina e ho bagnato il letto. La cosa viene resa pubblica e un giovinotto, un nobile polacco che sta facendo pratica d'agraria nella fattoria e corteggia la nostra governante, compone una poesia. Trascritta in bella scrittura e ornata ad una cornice di fiorellini viola, è letta dopo il pranzo davanti a tutti, prima di essere consegnata a me. Io scoppio a piangere e lui si confonde e mi chiede scusa, ma il mio dolore resta, come dire, fuori di me. Non odio neppure il giovinotto, sono troppo preoccupata a mettere ordine dentro la mia testa. Negli ultimi giorni trascorsi in casa con mio padre, ho dovuto mentirgli, tenergli nascosto il nostro incontro con la mamma, l'odore delizioso della sua pelliccia ritrovato nell'abbraccio e gli accordi presi per raggiungerla la mattina dell'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale. Lei stava da amici proprio a 2 passi dalla nostra scuola e dovevamo entrare da sole in casa, salire le scale e dire al giovane figlio del padrone di casa che ci avrebbe aperto la porta che volevamo la mamma, per consentirgli, credo, di testimoniare che eravamo venute di nostra spontanea volontà. Non riuscii poi a pronunciare la parola, ero incaricata del messaggio, tanto ero emozionata. Mi è pesato tacere con mio padre. Mentre gioco saggiamente con le mie bambole nella stanza un po' rivoluzionata, avevamo approfittato della lunga assenza di nostra madre per adoperare come casette i tavoli di studio messi uno sopra l'altro, e mio padre mangia piedini di vitello in gelatina seduto in vestaglia al tavolo in sala da pranzo, sento che lui mi fa pena. So che non è ragionevole, ma la pena mi duole come un graffio che sta suppurando sotto il cerotto. Mi sveglio persino la notte ed ecco che la pena è lì, sveglia anch'essa con me. Qualche volta, ma solo per istanti brevissimi, da cui il mio pensiero si solleva in fretta come un passero che si solleva senza averlo neppure sfiorato dal suolo dove ha creduto di scorgere una briciola, mi viene persino in mente di restare con mio padre. Anche mia madre mi fa pena. Però la pena che mi fa è ragionevole, perché mia madre ha ragione. E questa ragione sta ben solida nella mia testa, ben definita nei suoi angoli, duri come un cubo di legno. Essa governa i miei passi e le mie mani e governa anche la mia lingua, quando, chiamate a dichiarare davanti agli avvocati con chi vogliamo stare, devo dire di fronte a mio padre che voglio stare con la mamma. Lo dico e mi butto avanti con un salto cieco, lo stesso salto con il quale mi butterò avanti nel corso della mia vita, ciecamente, quando dovrò sceglierla, lei, la ragione, lei, la mamma. Poi annaspo dietro di me e non riesco a raggiungermi. Non sono paziente. Inoltre, trovo che ho già fatto abbastanza scegliendo lei, la ragione. Adesso vorrei essere lasciata in pace con le mie bambole, con i miei bambini, vorrei innaffiare i fiori, poi uscire al tramonto, fiutando l'odore estivo del fieno, lontanissimo, oltre i confini di pietra della città. Tornerò tardi a casa e cucinerò per i miei figli, per mio padre. Nostro padre ci aveva trovate a Waltershof, dopo averci cercate per tutta la Lettonia. La nostra governante ci dice che ci ha cercate per vendicarsi della mamma che lo ha lasciato. Quando è arrivato all'improvviso in macchina, stavamo giocando nel cortile, abbiamo dovuto rifugiarci di corsa in casa e chiuderci nella nostra stanza. Mio padre bussava alla porta e chiamava per nome me. Mi chiamava perché ero una vigliacca e forse gli avrei aperto la porta. Invece non gli aprì. E per resistere incominciai a fare operazioni su un foglio. I numeri mi venivano storti perché la mano mi tremava. La guardavo tremare e mi stupivo perché non la facevo tremare io. E lei tremava lo stesso. Poi arrivò mia madre, sentì la sua voce chiara dietro la porta e fummo chiamate appunto in quella stanza a dichiarare con chi volevamo vivere. Mio padre non è coraggioso. Soltanto io so che è stato una notte sveglio nel salone attiguo alla nostra camera da letto a fumare. Io sono stata seduta dietro la porta a guardare dal buco della serratura il punto luminoso del suo sigaro nella camera buia. Sono stata seduta sul pavimento finché non ho avuto freddo e troppo sonno per resistere e sono tornata a letto. Mio padre stava sveglio perché aveva paura. L'indomani doveva entrare in ospedale per farsi operare. Mio padre è un vigliacco, come me. Mi fa pena perché è un vigliacco. La sera che gli avevano detto per telefono, non so se l'avvocato, che è rimasto un puro nome, o la mamma, che lei non sarebbe più ritornata, lui si era messo a correre per le stanze e ad affacciarsi alle finestre, appoggiando la fronte ai vetri. Appoggiava la fronte alla finestra e, guardando nella strada, gridava: «Ti ho perduta, Clarette, ti ho perduta per sempre!» Questo vezzeggiativo io lo trovavo ridicolo, poco adatto a mia madre. Mia sorella e io stavamo chiuse in camera, ma anche da noi venne e gridò, la fronte appoggiata alla finestra che dava direttamente sulla strada. Dopo tutto quel che le aveva fatto, l'aveva anche picchiata, sicuro. Adesso faceva queste scene e gli rincresceva che lei non lo volesse più. Ciononostante mi faceva pena, proprio perché si recitava a se stesso, doveva gridare perché gli credessero. Anche a lui nessuno credeva. Anche lui nessuno lo amava, neppure io, che dovevo essere fedele a mia madre. Mi fa pena perché non lo amo. Amo mia madre, è lei che mi ha sempre amata e ha preso cura di me. Dico, da grande farò la maestra come la mamma. Mentre lei usciva di casa verso l'università, l'ufficio di mio padre, il teatro, un ricevimento, dietro di lei alitava una brezza d'acqua, di colonia, di sapone. Lei le regole non soltanto le insegna, ma le applica tutte su se stessa. Naturalmente le costa fatica e coraggio applicare le regole. Le regole sono dure. Prima di uscire va e viene per la casa, controlla i nostri cibi, i nostri discorsi, i nostri quaderni, i nostri vestiti, corregge un termine, ammonisce la governante. A Natale Poche settimane dopo la nostra fuga siamo nascoste in un castello ai limiti di una grande foresta. Dopo saremmo andate a Waltershof. La mamma ha preparato un piccolissimo albero di Natale. A casa l'albero toccava il soffitto e sotto l'albero troviamo invece dei soliti giocattoli, i pigiami di cui abbiamo bisogno appunto perché siamo fuggite senza portare via nulla. Le candele gettano una luce giallastra sulle pareti irregolari dove si scorge la pietra rigonfia sotto la tinteggiatura. Ho mangiato troppo patè. Al pranzo di Natale sono ghiottissima di patè. Sento un po' di nausea e sento pena per mia madre che ha dovuto regalarci i pigiamini invece dei giocattoli. Mi fa pena perché è coraggiosa. Cerco di esserle fedele e di applicare le regole, ma non sono molto svelta nell'applicare le regole e spesso sbaglio. Ci sono, dietro la regola principale, le regole inespresse. E se non si indovinano tutte insieme, va male anche la prima. Tornata a casa, passando di corsa, mia madre mi sgrida. Mia sorella è assai meno zelante di me nell'osservare le regole, però sembra aver capito proprio quelle altre, le regole inespresse, le quali chissà come finiscono con l'essere le più importanti. Una volta mia madre incontra una zingara che le dice: «Tu hai due figlie, una delle due la vedo sul palcoscenico». Avrai gloria da lei. Mia madre lo racconta. Zizi che cammina così bene sulle punte. Guarda come cammina bene sulle punte. Diventerà forse ballerina. Oppure diventerà cantante. Senti come canta intonata. Io non riesco neppure a pattinare. La pista di pattinaggio sulla quale mia sorella vola tracciando bellissimi 8 è uno dei luoghi che odio di più. Mi trascino ai bordi con le caviglie piegate e ho freddo. Gli altri si divertono, beati loro. Ma fa bene alla salute pattinare, fa bene andare in slitta giù per le ripide discese, fa bene entrare senza lamentarsi nell'acqua gelata. Inoltre, bisogna fare queste cose meglio degli altri. Una volta, siamo già a Torre Pellice, mia madre mi invia in una lettera un ritaglio di giornale con la foto di una compagna di scuola, una di quelle tedesche grandi e grosse con le quali mia sorella pattinava, vincitrice di una qualche gara. Sotto la foto mia madre ha scritto: «Vedi quel che è stata capace di fare la Marlene? Io so soltanto leggere. Leggo tutto il giorno, ma leggere non è un'arte». Anni dopo, sono già sposata e sono già nati i miei 4 figli, siamo tutti in cucina. I miei figli aspettano seduti a tavola in pigiama dopo il bagno quotidiano che io finisca di preparare la cena. Prima regola, essere puliti. Mia madre, venuta a trovarci come tutte le sere, racconta ai miei figli di quando insieme a mia sorella ho dato l'esame di ammissione alla scuola media di Torre Pellice. Avevamo imparato l'italiano in 8 mesi e Zizi, più giovane di un anno dell'età richiesta, aveva dovuto riparare italiano e disegno a settembre. Dice mia madre ai miei figli: «C'era un tema sulle esperienze della scuola elementare che la zia Zizi e la vostra mamma non avevano quasi frequentato. Miki, che era una bugiarda, inventò tutto il tema. Zizi, poverina, che era così sincera, non seppe che cosa scrivere». Altre volte racconta di quando ho fatto la cacchina sul sedile del treno. Avevo 11 mesi e lei, incinta di mia sorella, viaggiava quella volta senza bambinaia. Oppure racconta di quando, a soli 3 anni, avevo finto di avere l'appendicite. Un pomeriggio, il mio figlio più giovane, aveva allora 6 anni, di ritorno da casa della nonna dove era andato a pranzo, mi chiede: «Mamma, perché la nonna parla sempre male di te?» Non mi serve cercare di applicare le regole. Mi sfuggono quelle inespresse sulle quali si regge mia sorella, si sposta agevolmente da una situazione all'altra, osa parlare in lettone un po' sbagliato al postino. Io non avrei mai osato parlare in lettone, per giunta un po' sbagliato al postino. Cammina per il corridoio della scuola con le altre ragazzine sotto braccio, ridacchiando e mangiando tartine. Mia sorella è bruna, io sono bionda. Mia madre è molto fiera dei miei capelli. Quando li lava, li risciacqua con la camomilla. Zizi ha un vestito di seta rosa, che ricordo benissimo. Io uno di foggia uguale di seta celeste, che non ricordo affatto. A mia madre piacciono i miei capelli. Li pettina, spazzola, li ammira. Di mia sorella non loda nulla in particolare. Soltanto quando Zizi e io siamo adulte, la sento qualche volta lodare la bellezza di mia sorella. Era così bella, in quel tailleur bianco. Quel che è bello rende tenera la voce di mia madre. Patrizia Zappamulas ha letto I padri lontani di Marina Jarr. A cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.